cosa che mi ha colpito, prima di tutto, prima ancora della vicenda storica e di come ci viene, di come ci viene propinata la vicenda della corsa al West in maniera così romantica, eroica, mentre in realtà è stata una catastrofe per tantissime famiglie, perché dietro alla corsa al West ovviamente c'erano delle motivazioni di tipo capitalistico e di tipo politico che i poveri pionieri non immaginavano e nei quali sono rimasti invischiati come mosche. Cioè, la conquista del West non è stata una catastrofe solo per i nativi che sono stati scacciati dalle loro terre, ma anche per i primi pionieri che si sono fidati di quello che è stato detto loro e alla fine hanno perso tutto. Hanno lavorato e hanno perso tutto, come avete potuto ascoltare quelle di voi che hanno letto, che hanno ascoltato La casa nella prateria, sapranno che alla fine hanno dovuto andarsene, dopo aver lavorato un anno e aver costruito tutto, hanno dovuto andarsene. E come lui, tanti, perché quello che ha raccontato nel libro è la verità, è la sua storia, è la storia di Laura Ingalls. Quello che lei ha omesso sono i patemi d'animo, le sventure, le sciagure, le miserie, cioè lei ha dato una lettura eroica perché diciamo, i romanzi che lei ha scritto li ha scritti 40 anni dopo, forse di più, forse anche 50, però aveva superato i 70 anni quando ha iniziato a scrivere, per cui un po' il suo ricordo si era sfocato, un po' secondo me non aveva più voglia di rivangare la parte misera e quindi ha tenuto solamente la parte eroica e nonostante questo, cioè avete letto il colera e gli incendi e gli indiani e i lupi e quindi, cioè, immaginatevi che quella era solo la parte bella, figuratevi quella brutta, quindi che donne forti, potenti, volitive sono state quelle che hanno accompagnato i loro mariti, i loro padri, i loro fratelli. Ma la prima cosa che mi ha intrigata di tutta questa storia è stato il rapporto tra Laura Ingalls e sua figlia Rose. Ed è una cosa che mi piace, mi risuona quando io vedo che alla base di un successo culturale, letterario, scientifico c'è una collaborazione tra madre e figlia, perché pensando, ragionando a livello magico, ammesso che si possa ragionare a livello magico, è un po' un ossimoro, però diciamo di sì, mi ricostituisce l'archetipo di alleanza tra madre e figlia, archetipo che invece è stato distrutto per noi che siamo in questo cammino fin dai tempi delle fiabe, quando la madre è stata sostituita dalla matrigna e quindi ci hanno insegnato ad essere in competizione con le madri. Quindi prima di raccontarvi la storia di Laura e di sua figlia Rose, di come hanno collaborato, come sono arrivate a collaborare, vi ricordo per esempio la collaborazione tra Emmeline Pankhurst e sua figlia Christabel. Hanno sempre militato insieme, sono andate in galera insieme. Vi ricordate qui Emmeline e Christabel erano in prigione insieme, in due celle separate, e Emmeline, nella sua memoria, raccontava che sapeva che Christabel stava male a causa del digiuno e non poteva avere notizie, non poteva vederla, eppure sono andate avanti e sono andate avanti insieme e hanno portato insieme le donne al voto. Un'altra coppia di donne meravigliosa che non abbiamo trattato nelle nostre classi, ma che se volete potete andare a studiare leggendo la vita di Madame Curie, che è scritta da sua figlia Eve, la secondogenita, è Irène Curie, la figlia primogenita che seguì la madre nelle sue ricerche, la sostenne e prese anche lei il Nobel per la chimica. Ma per la chimica, non per la chimica organica, io non so la definizione esatta. Sta di fatto che Marie la prese per qualcosa che esisteva già in natura, mentre sua figlia Irene per qualcosa che era riuscita a riprodurre in laboratorio. Non so come sia la parola, forse Julie ci può aiutare, come si dice, la chimica, la differenza tra le due chimiche. Comunque sia, anche Irene prese il Nobel. E sono due scienziate. Irene collaborò con la madre, l'aiutò durante la guerra con la prima ambulanza che fu creata, con la sala operatoria viaggiante, con la sala raggi viaggiante, perché la sala raggi viaggiante, per poter fare le radiografie e scoprire dove erano i proiettili in maniera da non tagliare così a caso, ma estrarre esattamente il proiettile e salvare Arti, la inventò Marie Curie. E Irene, nonostante fosse giovanissima, decise di andare con la madre e aiutò la madre per tutta la sua vita, viaggiò con lei in America, quindi è un'altra fortissima coppia che arrivò al successo insieme, che si basò sulla fiducia e sulla cooperazione. E poi queste due pioniere che vissero insieme la miseria e arrivarono insieme al successo, madre e figlia. Prima però di raccontare la loro storia vorrei ricordarvi velocemente, poi eventualmente potete andarvela a riascoltare nella l'accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, nel secondo capitolo a partire dal minuto 11:57, poi semmai ve lo metto in chat, dove lei racconta esattamente quello che successe nella realtà ai pionieri, cioè di come praticamente il capitalismo distrusse l'economia, non soltanto in America ma anche in Africa e in Asia, in America Latina, distrusse l'economia naturale, che era quella delle comunità autosufficienti, per passare da lì all'economia commerciale, cioè un'economia nella quale ciò che veniva prodotto non si usava più per consumarlo all'interno della comunità, ma veniva venduto all'esterno, quindi cominciavano, oh che bello, arriva anche Ida, quindi cominciavano le speculazioni per arrivare all'economia capitalistica, che è esclusivamente capitalismo, cioè chi crea le grandi multinazionali agroalimentari non lo fa per nessuna forma di utilizzo che produce, ma esclusivamente per capitalizzare e reinvestire e aumentare sempre più il capitale. Io ho scritto qualche mese fa un articolo sulla mia opinione sul fatto che il capitale sia diventato un'egregora senza controllo, un'egregora creata dall'avidità, ma che si è poi staccata dai suoi creatori e che ora è libera in giro e che non vuole fare nient'altro che continuare a nutrirsi, perché non ha né cuore né testa ma solo ventre. E questa di Rosa Luxemburg mi sembra che vada di pari passo, perché se ci pensate non ha nessun senso biologico e fisiologico la capitalizzazione, perché invece di creare la vita e promuovere la vita crea solo distruzione, incluso lo sfruttamento massiccio dei terreni con conseguente impoverimento, perché non c'è rotazione, non c'è rimineralizzazione del terreno, cioè esclusivamente uno sfruttamento fino a che le terre non possono più essere coltivate oppure devono essere inondate di chimica perché possano produrre qualcos'altro. Quindi praticamente che cosa succedeva? Prima della guerra di secessione i farmer, ossia i fattori, farmer significa fattoria, i farmer erano i fattori come Charles Ingalls, come il papà di Laura, erano, ma se pensate anche per esempio a Green Gables di Anna dai capelli rossi, erano delle fattorie autosufficienti in grado di produrre tutto quello che occorreva. Avete visto che Charles Ingalls si è costruito la sua casa, si è scavato il suo pozzo, ha costruito la stalla, ha costruito i mobili, ha costruito il camino, ha fatto tutto quello che serviva da solo. In più durante l'inverno aveva cacciato gli animali per andare poi durante l'estate a scambiare le pelli per comprare l'aratro, per comprare il sale, il tabacco, quello che non riusciva a produrre in casa, inclusi i vetri per metterli alle finestre. Allora questi, evviva, è arrivata anche Ida, queste farm praticamente io ne ho visti dei facsimili in Bulgaria, nelle case tradizionali in Bulgaria, avevano il farmer, scusate anche Loredana vuole entrare, ecco, sono felice che arrivi anche Loredana, si producevano i loro carri, la casa, la stalla, i mobili, la vanga, il rastrello, l'aratro, cioè tutti gli attrezzi che servivano, il lino, la canapa, la lana, il cotone venivano allevate, coltivate, filate e tessute dalle donne che avevano il telaio e la cardatrice in casa, quindi producevano gli indumenti, le coperte, i tappeti, e in ogni farm c'era il laboratorio di falegname di fabbro. Si tenevano le oche perché con le piume si riempivano i materassi e i cuscini e durante l'inverno ci si provvedeva di carne attraverso la caccia, carne che veniva surgelata, veniva salata, la frutta dell'orto veniva usata per fare i vini e le conserve, tutto era conservato e consumato, non serviva denaro. Tutto quello che era in eccedenza veniva scambiato con le farm vicine o nelle città più vicine. Alcuni artigiani che facevano delle cose specifiche come i calzolai, per esempio, si spostavano di farm in farm, si fermavano un periodo, facevano le scarpe per tutti quelli che abitavano, che erano ovviamente facevano tutti parte dello stesso nucleo familiare, e poi si spostavano da un'altra parte. Dopo la guerra di secessione le cose cambiano, perché nel 1862 viene creato l'Homestead Act da Lincoln, che regolarizza l'accampamento, l'accaparramento di terre nelle zone dei nativi. Prima era libera, cioè il farmer arrivava, si prendeva la terra dove pareva e piaceva lui e si metteva lì e nessuno gli diceva niente. Dopo invece la cosa ha cominciato a essere regolarizzata da questo Homestead Act, il quale permetteva, dietro richiesta, al farm gli attribuiva un'estensione di terreno di 73 ettari circa, tra i 65 e i 73 ettari, e lui doveva dimostrare, coltivando per 5 anni, di essere in grado di mantenerci la famiglia. Se non ci riusciva, perdeva tutto. Ecco, questo fu proprio questo che li imbrogliò. I primi farmer, quelli come Charles Ingalls, furono imbrogliati dal fatto che gli venne detto che i selvaggi la terra non la usavano, che non se ne facevano niente, quindi i farmer che venivano da un'Europa ridotta alla fame e che anche nelle loro terre avevano vita difficile, si spostavano attratti dall'idea che c'era tanta terra disponibile da lavorare per tutti e che tanto i nativi non se ne facevano niente. Non immaginavano che invece i nativi venivano scacciati sempre più a ovest in terre sempre più marginali. Dopo l'Homestead Act, i farmer furono imbrogliati ancora di più perché ogni volta che non riuscivano, quando vedevano che non riuscivano a mandare avanti la loro fattoria, chiedevano prestiti. Quindi cominciarono a sorgere le banche, cominciarono a sorgere gli speculatori che davano loro denaro per poter andare avanti ancora un po', perché con quel poco terreno non erano in grado di mantenere la famiglia, poi le banche questi soldi li rivolevano indietro e così cominciò la civiltà dei debiti, che prima non c'erano tasse, non c'era denaro, non c'erano debiti. Con l'ingresso di questa Homestead Act, cominciarono i prestiti, cominciarono i debiti e poi, quando i farmer non erano in grado di pagare i debiti, cosa succedeva? Dovevano abbandonare la terra che veniva confiscata dalle banche, veniva rilevata per un boccone di pane dalle società di capitali che la usavano per fare la ferrovia. Infatti, le ferrovie sorgono tutte quante lungo queste terre che furono inizialmente coltivate, dissodate dai farmer, poi costretti a lasciarle, e cominciò l'ingresso delle cosiddette bonanza farm, cioè sono le antenate delle no queste multinazionali agroalimentari, dove in queste enormi estensioni di terreno rilevate, cioè mettendo insieme tutte le piccole farm abbandonate, si creavano queste enormi estensioni che venivano comprate da chi aveva denaro, cioè dai capitalisti, e venivano coltivate con le macchine. Quindi non c'erano più i proprietari che coltivavano la loro terra, ma c'erano i braccianti stagionali che alloggiavano in baracche. Il capo viaggiava a cavallo per spostarsi da un appezzamento all'altro e venivano usate le macchine per coltivare. Tutto questo esclusivamente per continuare ad incrementare il capitale e acquistare sempre più terre, ovviamente vicino alle ferrovie, perché i vagoni della ferrovia servivano poi per trasportare queste enormi quantità di grano prodotte dalle Bonanza Farm in giro per l'America. Ovviamente questo tipo di agricoltura, come sappiamo, ha costi bassi, molto più bassi di quella delle farmer, potremmo chiamare il corrispondente della nostra agricoltura biologica, mentre le Bonanza Farm sono il corrispondente della nostra agricoltura convenzionale, chiamiamola quella chimica, quella che si riempie di chimica perché con i mezzi naturali non riesce a mantenere dei prezzi così bassi. Questi prezzi bassi chiaramente finiscono di mandare fuori dal mercato i produttori delle piccole farme che ancora erano rimasti in piedi perché il grano veniva immesso sul mercato a prezzi molto più bassi. Nessuno dei farmer riusciva più ad essere autosufficiente perché dovendo pagare le tasse che prima non c'erano e dovendo restituire gli interessi alle banche che prima non c'erano, i suoi prodotti, il suo grano, le sue derrate alimentari, le sue cose artigianali non poteva tenersele, le doveva vendere per monetizzare, per pagare i debiti. Quindi si trova a avere metà della roba che gli serve e a dover comprare il resto, spesso ricavato dalle sue stesse materie prime. Quindi lui vendeva il maiale e comprava la carne insaccata, vendeva la frutta e comprava le conserve. Quindi da lì si è messo in moto un meccanismo infernale che praticamente ci ha portato a quello che stiamo vivendo oggi. Quello che stiamo vivendo oggi non è che il ciclo finale di un meccanismo che si è messo in moto nel Settecento, con la prima rivoluzione industriale, prima della rivoluzione francese. Io spero che voi vi ricordiate o che vi andiate a ripassare le lezioni precedenti perché c'è un filo conduttore. Quando abbiamo studiato le protofemministe, abbiamo parlato di questa rivoluzione industriale. Ecco, quindi i dazi poi sostituiscono il libero scambio, perché per passare poi sui terreni che erano di proprietà di queste società capitalistiche, poi bisognava pagare una quota. Quindi lo scopo del capitale era sottrarre ai farmer la terra e i mezzi di produzione. Ovviamente gli indiani, i nativi americani erano già stati derubati e venivano spostati sempre più a ovest, quindi i farmer hanno, tra virgolette, derubato delle loro terre i nativi e poi sono stati a loro volta derubati dalle società di capitali. Si è innescato un karma che è quello che stiamo vivendo oggi, vedendo oggi. Un geologo durante la creazione della prima Bonanza Farm in Dakota, un geologo affermò, leggo, che le fattorie a conduzione familiare, cioè quelle che Rosa Luxemburg chiamava l'economia naturale, non erano state utilizzate in conformità con l'Homestead Act e non davano alla terra il tipo di aiuto necessario per mantenerla in forma. Quindi questo geologo si inventò di sana pianta che le farm a conduzione naturale non davano, e vedo che la Giulia fa così con la testa, non davano sufficiente prodotto perché? Perché è lì che si comincia a pomparle, cioè a creare quantità di cibo usando metodi artificiali, ovviamente non ai nostri livelli, ma è lì che si è cominciato, per creare quantità di cibo che non ha nessuna proprietà nutritiva perché è ottenuto con mezzi chimici, ottenuto, lavorato, conservato con mezzi chimici. Allora facciamo un rapido excursus storico. Nel 1825, ci sono ancora 10 minuti, poi quando cade la linea ritorniamo. Inizia lo spostamento delle tribù native nel 1825. Poi c'è la guerra di secessione tra il 1861 e il 1865. All'interno della guerra di secessione viene creato da Lincoln questo Homestead Act che legalizza l'insediamento da parte dei pionieri sulle terre native. La nascita di Laura Ingalls nel 1867, 2 anni dopo la fine della guerra di secessione. Il viaggio degli Ingalls verso ovest nel 1870, cioè l'anno di creazione della prima Bonanza Farm. Quindi il viaggio degli Ingalls in realtà si incastra proprio ovviamente non c'è stato uno stacco tra le farm e poi le farm libere prima e poi quelle dell'Homestead Act e poi le Bonanza Farm. È stato un flusso. E il viaggio a ovest della famiglia Ingalls si inquadra all'interno di questo movimento che dura circa 5 anni, 6 anni. Rose, la figlia di Laura, nasce nel 1876. Allora, Laura Ingalls, abbiamo detto che nasce nel 1867 in una famiglia di pionieri e lei dal carro vede davvero quello che descrive nel suo romanzo. Quindi vede davvero le praterie, mentre con le sorelle, che sono reali, tutto quello che lei ha scritto è reale, quindi è reale che abbia avuto due sorelle, Mary e Carrie. e che il papà fosse Charles e che la mamma fosse Caroline. Viaggiarono dal Wisconsin al Missouri per trovare un posto dove poter stare meglio, dove poter coltivare meglio, perché nella vecchia casa nel Wisconsin il padre faceva il taglialegna e voleva una terra da coltivare per poter stare in una situazione di più agio e di più abbondanza. A 18 anni poi Laura, non indaghiamo la sua vita perché ve la potete leggere, la sua vita da pioniera ve la potete leggere o ascoltare dal romanzo La casa nella prateria. A 18 anni Laura sposa Almanzo Wilder e un anno più tardi, nell'86, 1886, nacque la figlia Rose. La famiglia di Laura, Almanzo e Rose vive una vita durissima, e questa è la parte che la storia non ci ha mai raccontato. La storia ufficiale, prima non ci ha mai nemmeno detto che gli indiani fossero stati derubati delle loro terre, poi ha cominciato a dircelo, ma sui pionieri che sono andati nell'West ci ha sempre raccontato la parte avventurosa, la parte eroica, non ci ha mai detto come vivevano la miseria, la fame, il freddo, i raccolti andati a male, il colera, le malattie, gli incendi, gli allagamenti, tutta questa parte non ce l'ha mai raccontata perché dietro c'era questo enorme movimento di denaro che per quanto mi cioè l'usurpazione delle terre coltivate dai farmer da parte delle società di capitali, che per quanto mi riguarda io ho saputo leggendo l'accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, altrimenti non lo avrei saputo di sicuro, non l'avrei studiato nei libri di storia. Perché questa storia non vogliono che sia trasmessa, questa storia è quella che squalifica l'impostazione economica, liberistica, capitalistica nella quale noi viviamo, che viene insegnata nelle facoltà di economia, che io ho imparato all'università e che ci fanno credere che sia l'unica. L'altra versione non viene insegnata, perché altrimenti viene messa in discussione questa, non so se è chiaro, però è interessante, cioè l'economia non è solo per gli economisti, l'economia dovrebbe essere studiata un pochino da tutti perché è il mondo nel quale noi ci viviamo, è nel mondo nel quale riescono a fregarci, perché non conosciamo mai quello che c'è davvero dietro, nessuno ce lo dice. Allora, attraversarono una serie di disastri, la famigliola con la bimba piccola, da cui uscivano ogni volta per il rotto della cuffia lavorando fino allo sfinimento. Laura si occupava della casa, delle persone che prendeva a pensione, quindi cucinava, lavava, stirava per loro, puliva le loro camere, si occupava dell'orto e del pollaio e a un certo punto, per poter arrotondare il bilancio magrissimo, cominciò a tenere una rubrica su un periodico rurale, una rubrica dal titolo Cosa pensa una donna della fattoria? E in questa rubrica lei scriveva già. Ed è lì che cominciò ad avere l'idea che avrebbe potuto scrivere. Ovviamente scriveva in modo artigianale perché non aveva studiato, aveva giusto fatto qualche classe delle elementari. Scrivevano quindi la sua opinione sui lavori domestici, sull'agricoltura, sul matrimonio, ma si spinse a parlare anche, per esempio, del voto alle donne o dell'emancipazione, perché Laura era comunque una donna, potremmo dire una proto-femminista, non credo che si sia mai occupata di femminismo. Aveva altro da fare, aveva da pensare come riempire tutti i giorni la pancia della sua famiglia, però dentro di sé doveva esserlo perché anche nella piccola casa, nella casa della prateria, mette un accenno alla questione dei nativi quando la sua piccola protagonista, che è lei stessa, dice: Ma perché papà ci dobbiamo mettere sulle terre degli indiani? Loro non saranno contenti se noi ci mettiamo sulle loro terre. Anche se lo scrive a 70 anni, però lei in qualche modo prende le difese dei nativi, poi ovviamente il padre le dice: Non voglio più sentirti dire queste cose, è il governo che decide, bla bla bla. La figlia di Rose, dunque il romanzo, ecco, leggo qui, il romanzo La casa nella prateria iniziò a essere scritto 40 anni dopo che queste memorie si consolidarono. La figlia di Rose passò i primi anni in povertà con la famiglia perché dal Missouri poi passarono al Dakota e poi tornarono in Florida, cioè si spostavano periodicamente perché dove stavano o veniva bruciato il raccolto o il raccolto agricolo era scadente o c'erano, passarono la difterite, insomma periodicamente. dovevano andarsene, cercare una situazione migliore, soprattutto per il fallimento dei raccolti, le carestie, l'impossibilità di poter vivere nell'agiatezza, anche se questo non viene raccontato dalla storia e non viene raccontato neanche dai romanzi della saga della Casa nella Prateria, perché Laura vuole dare un'immagine vincente del pionierismo americano, e dopo vedremo perché. Persino la loro casa che viene incendiata, a un certo punto viene incendiata davvero. Quindi tornarono nel Missouri e rimasero in affitto per 2 anni e poi si trasferirono a Mansfield, dove finalmente Rose, la figlia, comincia a frequentare la scuola. Sono lì, Almanzo prende una piccola appezzamento e costruisce la fattoria dove poi Laura scriverà tutta la saga. Rose, nei suoi primi anni, andava a scuola ad orso di asino, lacera, scalza, veniva presa in giro dai compagni e dalle compagne, ma era una ragazzina assolutamente brillante, intelligentissima, era la migliore della scuola, e quindi siccome alla fine sente che quella scuola non le dà sufficienti informazioni, non la soddisfa, decide di starsene a casa. Consegue il diploma di scuola superiore a 8 anni ugualmente, ma da esterna. Fa l'homeschooling praticamente con la mamma. Quindi abbiamo delle antenate di grande spessore che hanno deciso di fare l'homeschooling per i loro figli. Dopo il liceo decide che non vuole più vivere nella miseria che aveva condiviso con la sua famiglia, quindi fa diversi lavori fino a che si trasferisce a San Francisco, dove fa un cattivo matrimonio e ha un aborto, ma questo cattivo matrimonio la inserisce nel giornalismo, ed è questa da un certo lato la sua fortuna. L'istinto materno di Rose non può essere girato a figli suoi, perché non ebbe figli suoi dopo quell'aborto, non rimase incinta, ma adottò moltissimi bambini e bambine adolescenti ai quali e alle quali permise di studiare e di vivere una vita dignitosa. Dopo il divorzio intraprese la carriera di giornalismo e divenne una biografa professionista, una delle biografe, stiamo parlando di Rose, non di Laura, stiamo parlando della figlia adesso. Divenne la biografa ufficiale di personaggi come Henry Ford, come Charlie Chaplin, una delle donne, delle scrittrici più pagate d'America. Quindi pensate da dove era partita, pensate da dove è arrivata, e togliamoci tanto di cappello per questa figura che io non avevo mai, davvero mai sentito nominare, che oltre alla carriera di scrittrice e di giornalista, e oltre ad aver lanciato la madre, è poi anche un'attivista politica. E tra un po' lo vediamo. Viaggiò durante la sua carriera, dicevamo che Rose, che diciamo sviluppò la sua attività di scrittrice, di biografa e di attivista e di femminista, perché lei si definì sempre una femminista, dall'America, nonostante fosse fine 800, primi 900, viaggiò in Russia, in Albania, in Canada, nei Caraibi, in Turchia, in Egitto, Palestina, Siria, Iraq, Georgia, Armenia, quindi direi che fu veramente una donna in gamba. Mi sentite? Tutto a posto? Ok. C'è qualcuno di collegato? Momento che c'è, sento che c'è un audio. Che è la Rosalba, che adesso la disattivo, e anche la Mariella. Ok, scusatemi, ma ok. Poi venne la Grande Depressione, e nonostante avesse guadagnato molto denaro, Rose e anche sua madre Laura persero tutti gli americani persero i loro soldi nel crollo di Wall Street del 29. Fu lì che Rose ebbe l'intuito di lanciare le memorie della madre e di lanciare la saga nella prateria. era esperta, ricordiamo che Rose era un'esperta, era una biografa professionista. L'America era in ginocchio, l'economia americana, tutti avevano perso i loro risparmi nel crollo della borsa e avevano bisogno di un nuovo ideale, di un nuovo incentivo, di una nuova speranza, un po' come siamo messi noi adesso, vedete che alla fine le cose sono sempre quelle, nella dualità non si inventa mai niente di nuovo e magari cambiano le facce, ma le storie sono sempre quelle. Per cui noi scriveremo le memorie delle donne in cerchio, della scuola delle donne in cerchio, perché questo non vada perso, quello che stiamo facendo. Quindi Rose capì che il suo popolo, la sua gente aveva bisogno di una nuova carica e cominciò a raccogliere le memorie della madre. La madre sapeva scrivere perché vi ricordate che era stata collaboratrice di una rivista rurale. E di un giornalino rurale, quindi disse alla madre di cominciare a scrivere le sue memorie, ovviamente decurtando tutta la parte depressiva, perché gli americani erano già abbastanza depressi, quindi ricreando una sorta di mito dell'American Dream, sia per dare forza alla sua gente, sia perché secondo me le donne, perlomeno quelle che non sono dentro nel meccanismo del vittimismo, le donne a un certo punto sentono il bisogno di scrollarsi di dosso la parte pallosa e di ricordarsi quella positiva, di agganciarsi ai ricordi positivi. Quindi Rose fece scrivere alla madre le sue memorie, Laura cominciò a scriverle a mano, poi Rose le ribatteva e cominciò, poi divenne praticamente un'azienda familiare nella casa, nell'ultima casa, quella che avevano a Mansfield. Pare che madre e figlia litigassero come cane e gatto, ma ci sta, va bene, avevano probabilmente tutte e due un carattere molto forte, erano tutte e due regine. Sta di fatto che comunque alla fine la loro collaborazione diede dei buoni frutti. E così Rose cominciò a mandare il frutto del lavoro di sua madre, ribattuto da lei, che ricordiamo era una biografa professionista, quindi è lei che crea il personaggio di Laura Ingalls e della famiglia Ingalls, mettendo insieme tutti gli ingredienti, tra virgolette, commerciali, ma in senso buono, passatemela, che avrebbero reso Laura Ingalls l'icona del pionierismo femminile nel mondo. Però non trovò editori per il lavoro della madre. Pensate, cioè, quando leggo questa cosa mi consolo, io che ho avuto sempre tanti problemi con tutti gli editori, ne ho cambiati 8 e alla fine ho optato per editarmi da sola perché mi sono stufata di litigare, di essere presa per i fondelli e di essere trattata come una venditrice di pentole che doveva fare fatturato alla fine dell'anno. Più di una volta sono stata accusata di non darmi abbastanza da fare per vendere i miei libri, cioè io che li dovevo scrivere, erano loro che dovevano vendere, i librai ed editori. Comunque stendiamo un velo pietoso su questa parte. Quindi trova però Rose un editore per bambini che dice sì, questa è un'editrice, una donna, che dice sì, è un buon materiale, devi però renderlo leggibile ai bambini. Ed è per questo che, se avete ascoltato la lettura del primo volume, spesso ci sono delle ripetizioni che creano quasi una sorta di filastrocco ogni volta che ripete con papà e mamma e Mary e Carrie, anche se magari lo aveva detto due righe sopra, no? Ogni volta ripete perché è pensato per i bambini. Beh, che in realtà secondo me i bambini di oggi si sentirebbero presi per i fondelli a continuare a ripetere perché si ricordano meglio degli adulti i nomi dei protagonisti, però forse i bambini di allora erano un po' meno svegli, magari perché erano nutriti peggio, non lo so, mi viene da dire così. Quindi in sostanza vengono scritti questi romanzi della saga La casa nella prateria, che sono 8 romanzi, tra cui negli ultimi anche si entra Rose come protagonista, perché gli ultimi sono dedicati a Laura già sposata con Almanzo, alla vita con Almanzo e alla nascita di Little Rose, quindi negli ultimi due o nell'ultimo romanzo. Contemporaneamente però Rose, che è veramente una ragazza brillante, se pensiamo da dove è partita, prende il materiale della madre, lo trasforma in romanzi per adulti e scrive dei romanzi che sono diventati dei cult della sua generazione. Quindi scrive dal materiale del loro viaggio, del loro primo viaggio nel West, Rose tira fuori il romanzo Let the Hurricane Roar, lascia che l'uragano ruggisca, che poi fu reintitolato I Giovani Pionieri, e parlava dello stesso argomento ma in forma ma per adulti, e nello stesso tempo scrisse due libri che sono Free Land, La Terra Libera, e aspettate che trovo il titolo dell'altra, The Discovery of Freedom del 43. Allora, Free Land è del 38 e The Discovery of Freedom del 43. Questi due libri Rose li scrisse con intento politico, cioè lei divenne, insieme ad altre due, la madrina, la creatrice del movimento libertariano, ovvero un movimento politico che sostiene la libertà individuale, la creatività delle persone, il laissez-faire, cioè lasciamo che le persone si facciano la loro vita, che creino la loro propria azienda, la loro propria abbondanza, la loro propria fattoria. Tutto questo in risposta invece alla manovra di Roosevelt per rimettere in piedi, tra virgolette, l'America dopo il crollo di Wall Street, che fu chiamato il New Deal rooseveltiano, ossia l'ingresso dello statalismo nell'economia, che è quello che stiamo vivendo noi oggi, lo stiamo vedendo, cosa significa quando lo Stato ha il permesso di interferire e di intervenire con tutte le attività pubbliche e private delle persone. Quindi la tassazione, quindi la scuola obbligatoria, quindi tutte le cose alle quali verso le quali Rose non si sentiva in sintonia, perché Rose sosteneva che l'istruzione dovesse essere libera e fatta per amore dell'istruzione, non perché c'è una guardia che te lo impone. E lo stesso lei si scagliò contro il fatto che le banche, per esempio, rendevano molto difficile l'ingresso nel mondo economico delle attività della gente di colore, e in questo senso è stata equiparata a Zora Neale Hurston, l'autrice di I loro occhi guardavano Dio, anche questo lo abbiamo di recente finito di registrare sul nostro canale. Quindi Rose in sostanza unì una politica antirazzista, guardate, sembra strano ma le donne riescono a fare questi miracoli, una politica antirazzista a una forma di protezionismo economico. E dopo essere stata in Russia come addetta stampa, diciamo, anche se ancora non si diceva così, ma questo era quello che lei faceva, addetta stampa della Croce Rossa, di aver visto i danni che lo statalismo aveva fatto all'economia russa, che aveva deportato tutti i contadini, li aveva mandati a lavorare nelle fabbriche, aveva tolto la proprietà privata, aveva distrutto tutto, aveva obbligato le persone a vivere in due stanze, all'interno o in una stanza sola all'interno dei grandi palazzi, insomma aveva fatto un disastro. Quindi lei, dopo aver visto di persona che cosa aveva combinato la dittatura comunista in Russia, dice no, le persone devono essere lasciate libere di fare e di costruire la propria ricchezza. E evidentemente il suo passato di pioniera e della sua famiglia le aveva inculcato questa sorta di libertà, questo bisogno di poter fare le cose a modo suo, al punto che fece addirittura una sorta di disobbedienza civile, perché si chiuse nella sua fattoria che nel frattempo si era comprata e cominciò a coltivarsi la terra da sé e a procurarsi il suo proprio cibo, in maniera da non dover più pagare le tasse, cioè azzerando completamente il suo reddito. È un'anticipazione di Gandhi, cioè lei pensò, io mi coltivo il mio cibo, così posso non avere più entrate, quando io non avrò più entrate non pagherò più le tasse e quindi non contribuirò più a questo sistema corrotto che non mi piace. Tutta questa roba si chiamava libertarianismo. Lei divenne una paladina, un'icona di questo, una leader di questo movimento libertariano, e ispirò tutto un movimento politico che poi si seguì a lei e creò anche una scuola nella quale tutto questo venne insegnato. Termino. Quindi questo libertarianismo aveva come focus la centralità dell'individuo, la libertà individuale, la libertà di pensiero, la libertà di utilizzo delle proprie risorse, la creatività e la libertà di istruzione. Vi fa pensare a qualche cosa, a un'antenata che abbiamo di recente trattato tutto questo, perché sapete che la risonanza ci porta sempre a legare le antenate, anche se hanno vissuto in tempi diversi, ve lo dico io, Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos fu paladina del libertinismo. Allora, Rose Wilder, libertarianismo. Ninon de l'Enclos, 600 francese, libertinismo. Guardate che non è il libertinaggio, anche se molto spesso la storia ufficiale patriarcale li considera sinonimi, perché il libertinaggio è una roba che ha a che fare con la libertà di costumi sessuali. Il libertinismo, invece, a quello a cui si ispirava e visse Ninon de l'Enclos, era esattamente questo: libertà dalle superstizioni, dalla falsa moralità, dall'ipocrisia sociale, libertà di pensiero, di costumi, di giudizio. Anche libertà sessuale, ma come effetto collaterale di tutte queste altre libertà, inclusa l'ipocrisia dei costumi. Quindi io sento un legame tra Ninon e Rose Wilder, sento un legame tra queste coppie di madre e figlia che hanno collaborato per fare delle grandi cose che poi ovviamente sono state ignorate, sono state silenziate dalla storia ufficiale. Io sfido chiunque di voi ad aver mai sentito parlare di Rose Wilder e del libertarianismo, nonostante ai suoi tempi sia stata la scrittrice più pagata d'America e una donna, era amica intima di Lincoln, no, scusatemi, non di Lincoln, di Ford. Del quale scrisse la biografia, quindi aveva un grosso fascicolo depositato all'FBI, perché l'FBI ovviamente la teneva d'occhio, soprattutto quando cominciò a coltivarsi la sua terra, a procurarsi il suo cibo e a non voler più pagare le tasse. Era chiaramente un'eretica, era chiaramente un'anarchica, morì però a 82 anni, senza mai aver avuto figli, con un sacco di protetti. Morì ricca, perché comunque il suo lavoro era i libri che aveva scritto le fruttavano diritti d'autore che poi lei usava però per mantenere e far studiare tutti i ragazzini e le ragazzine, cioè non se li godeva lei, in realtà li reinvestiva nelle cose che secondo lei erano importanti, quindi l'educazione degli adolescenti e morì bene. Come sua madre anche morì a 78 anni, quindi sono due donne che, nonostante le difficoltà, hanno vissuto delle vite lunghe, ricche, intense e hanno dato alla comunità femminina tantissimi spunti. Ora io vi leggo un piccolo brano che a me fa tanto pensare a Maria Montessori, che però è stato scritto da Rose Wilder, ha scritto: la scuola americana è ora obbligatoria, imposta dalla polizia e controllata dallo Stato e pagata con tasse obbligatorie. Il risultato inevitabile è posticipare la crescita di un bambino. Passa il bambino dall'autorità dei suoi genitori all'autorità della polizia. Non ha il controllo del suo tempo e nessuna responsabilità per il suo utilizzo fino all'età di 16 anni. La sua situazione attuale non gli richiede di sviluppare, sentite, fiducia in se stesso, stessa, autodisciplina e responsabilità, cioè non ha una reale esperienza di libertà nella sua giovinezza. Ditemi se non è in sintonia con Maria Montessori. Guardate che questo pensiero femminino travalica le singole individue. È come dire, è come se le donne, le grandi donne, fossero state delle ricce trasmittenti di un pensiero femminino, che è quello delle comunità matrifocali, quello del buonsenso femminile, perché tutto quello che io sto raccontando e leggendo ha come base il buon senso delle donne, la buona, ottimale gestione delle risorse nella comunità, di cui alcune donne si fanno portavoce perché probabilmente sono più recettive di altre. Ecco.